Io glielo chiedo per l'ultima volta, poi lei voterà la sfiducia o no? Me lo dica. Ma intanto io non ho messo scelte ancora, perciò non ho fatto scelte. Io ho preso, beh, è uscito dal partito, dice almeno. Ho preso una posizione perché sul mio nome si sta buttando fango e io ritengo che tutto quello che si sta facendo è veramente... E questo l'ha spiegato. Ci vuole rispondi. Io poi non gli prometto, non glielo chiedo più, gli ho chiesto 55 volte. Mi risponda se vota questa sfiducia o no. È una grande scorrettezza che non ha limiti. La sfiducia la vota? La mia riflessione è tutt'altra. Mi dispiace che lei vuole fare la battuta solo. Intanto ora gliela dico, gli darò la mia risposta alla sua domanda. Ma mi faccia dire una cosa prima di darle la risposta. Questo è un momento difficile. Giorno ma questo l'ha già detto però. Non è... 14 non ci saranno né vinti né vincitori. Ma l'ha già detto. Il collega Raisi dovrebbe trovare soluzioni con il gruppo di maggioranza per elaborare un governo e governare. Onorevole, mi scusi, ma questo siccome il all'opposizione di fare opposizione. Onorevole, però mi scusi, siccome siamo quasi in chiusura di trasmissione. E poi gli do la risposta. E me lo dica. Rimandare gli scontri interni a fra qualche anno, perché oggi significa mandare sul baratro una nazione. Va bene, onorevole, l'ha già detto, ma mi risponda, sennò poi la gente dice che i politici non rispondono. Sino ad oggi, sino a, in questo momento, la mia posizione è quella di ieri e dell'altro ieri. E quindi? Ancora sto all'opposizione. Fino a oggi? E che succede da oggi al 14? Ci sarà la conferenza stampa, lei all'una, io dirò qualche notizia in più. Ah, vabbè. E non me lo poteva dire prima, onorevole, che non mi risponderà fino all'una. Mannaggia, direttore Mulè, qua c'è per cavare una parola. Direttore, no, aspetti, voglio chiudere, no, il direttore Mulè ci ha lasciato, volevo chiudere con lui. E onorevole, però, Scilipoti, me lo poteva dire prima, ho fatto 50 volte, sono sudato a fare questa domanda 50 volte. All'una scopriremo. Mi ascolta? Sì, sì. Ti rispondo. Oggi e anche oggi all'una riconfermerò la mia posizione. Ah, cioè perfetto. Nella posizione di opposizione. Di opposizione, perfetto, chiaro? Perfetto. È tutto chiaro. Oh, è stato chiarissimo. È stato chiarissimo, alla fine ce l'abbiamo fatta e la ringrazio.